Il punto di Stefano Folli. C'è grande attesa per il discorso del nuovo Premier in Parlamento ed è comprensibile. Renzi ha promesso interventi immediati, riforme incisive, taglio della spesa improduttiva e un assalto alle strutture burocratiche dei ministeri. Il tutto in poche settimane, perché il ferro va battuto finché è caldo. Per quanto si possa essere scettici su queste promesse impegnative, è interesse generale che il nuovo governo ottenga risultati e restituisca un po' di fiducia e di speranza agli italiani stremati dalla crisi. Ecco perché nessuno dubita che l'esecutivo otterrà la fiducia anche al Senato, dove i numeri sono più stretti. I malumori sono rientrati, è inevitabile, compresi quelli della sinistra del PD. Non votare la fiducia significa uscire dal partito e ben pochi sono disposti oggi a cominciare l'ennesima traversata del deserto. Piuttosto occorre sperare che i renziani non facciano troppi errori. Cominciare annunciando maggiori tasse sui bot, come è accaduto ieri, non è un'idea brillante per mille intuibili ragioni. Nonostante tutto, il grande comunicatore Renzi deve imparare ancora qualcosa nel campo della comunicazione e soprattutto insegnarla ai suoi collaboratori.